Cialtroni nello spazio, puntata Hack Meeting. Bentornati anche quest'anno alla spazio di approfondimento informatico, tecnologico, culturale di Radio Onda d'Urto. Beh, anche quest'anno forse è una parola un po' grossa, visto che non abbiamo ancora deciso, ma pare che insomma dovrebbe tornare presto l'appuntamento con i cialtroni nello spazio. Esatto, magari in forma un po' diversa. E comunque questa settimana abbiamo qualcosa di veramente speciale. Abbiamo un appuntamento, Alessandro, questo weekend, che andremo tra pochissimo a presentare con uno degli attivisti che lo organizza. Sì, allora questa è una puntata speciale per parlare della tre giorni che ci sarà a Pisa. L'Hack Meeting, l'appuntamento annuale che ormai da 10 anni si tiene in Italia. Un appuntamento che è organizzato da una lista che si da una comunità, diciamo. Sì, da una comunità, ma una comunità che ci tiene, insomma, a questo metodo. Insomma, è una mailing list dove la gente si scambia informazioni e periodicamente organizza anche questo evento della cosiddetta comunità acara italiana. Allora, prima di collegarci con Otted, possiamo dire subito che si terrà questo weekend a Pisa, al centro sociale Rebeldia, in collaborazione appunto con gli attivisti di Pisa, e che per partire da Brescia c'è c'è già qualcuno che si sta muovendo, quindi per coordinarsi si può, Marco, scrivere sì, un'email a... Infatti, perché noi cialtroni abbiamo deciso di andare più o meno in massa in quel di Pisa, non abbiamo ancora deciso bene se andarci in motocarrozzetta, bicicletta, carriola, treno, camper o transatlantico. E che mi sembra quindi... che sarà la cosa più probabile, andarci in transatlantico. Esatto, e quindi abbiamo appunto, se volete venire anche voi all'Hack Meeting con noi, ci possiamo mettere d'accordo e mandate una mail alla nostra lista all'indirizzo email cialtroni@circolab.net. E per il fine settimana ci organizziamo, non chiedete troppo anticipo, perché forse non abbiamo detto che è appunto questo weekend l'Hack Meeting 27, 28 e 29. E quindi sostanzialmente si partirà qualcuno tra domani e dopodomani. Esatto, giovedì sera o tutto più venerdì, perché l'Hack Meeting è il venerdì tutto il giorno, il sabato e la domenica mattina. Tra pochissimo i dettagli, appena ci collegheremo con uno degli attivisti, anzi delle attiviste. Don't hold back. Don't hold back. Don't hold back. Don't hold back. Don't hold back. Don't hold back. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Come annunciato, ci ha raggiunto un attivista della comunità dell'Hack Meeting. Ciao Otted, grazie di essere con noi innanzitutto. Allora. Ciao. Allora, ciao. Quest'anno la 10ª edizione dell'Hack Meeting, nonostante le controversie sul primo anno era l'anno 0, era l'anno 1, eccetera. Si terrà questo weekend a Pisa, al centro sociale Rebeldia, in qualche modo come un po' si è fatto anche negli anni scorsi, cercando il supporto di qualcuno che decidesse di organizzarlo a livello locale. Innanzitutto a te volevamo chiedere di presentarci un po' che cos'è questo Hack Meeting, chi ci può partecipare. Ok, allora innanzitutto l'Hack Meeting, la prima cosa che va detta è che è un evento pubblico, assolutamente pubblico, e rivolto in generale a tutte le persone che hanno un atteggiamento critico e curioso nei confronti delle cose. Ovviamente la nostra materia, diciamo, di interesse è la tecnologia, però con tecnologia ci piace un po', cioè ci piace pensare la tecnologia innanzitutto come un computer e quindi come la tecnologia elettronica e informatica così come la conosciamo, ma con un po' l'idea di applicare questo spirito critico curioso in generale a tutte le cose che possono essere tecnologiche. Infatti come dire, il motivo per cui è aperto a tutti è che l'hacking, quindi questa attitudine del hackare, del trasformare, del manipolare, è un qualcosa che diciamo per definizione si applica al computer, ma per estensione può essere applicata a qualunque cosa. Il costruirsi una bicicletta con dei materiali di riciclo, piuttosto che il trasformare un oggetto che nasce con una funzione per farlo diventare qualcos'altro, sono forme di hacking altrettanto dignitose e valide, che non hanno niente a che vedere con i bit, gli 0 e 1 e le disquisizioni su in qualche modo su questi argomenti. Quindi in sostanza è un incontro che si fa appunto annualmente da 10 anni in uno spazio liberato, in uno spazio libero, ed è un incontro che viene auto-organizzato da una mailing list con l'obiettivo di fornire per 3 giorni in maniera appunto concreta, tangibile, tramite seminari, workshop e così via, un'idea effettiva e precisa di cosa sia questo hacking e un invito alla partecipazione di tutti quelli che in qualche modo vogliono riflettere su questa attitudine e su questo tipo di modo di porsi nei confronti delle cose. Quindi insomma non è il classico convegno col professore in cattedra. Ecco, che di professori in cattedra ce ne sono ben pochi, ecco. L'atteggiamento è sicuramente informale, appunto aperto, in cui chi fa i seminari li fa più per il piacere della condivisione che non perché c'è, cioè, come dire, un'autorità o un merito contenutistico di qualche tipo, e questo poi lo si riflette anche nella natura del seminario, che comprende insomma le cose più disparate, però non è niente di normale, di formalizzato, è una grande iniziativa autogestita e quindi in tutti gli aspetti, quindi sia dalla logistica dei 3 giorni, all'organizzazione, dal modo in cui le persone stanno insieme e così via, e quindi, come dire, è un qualcosa in cui trovare il proprio livello di coinvolgimento e partecipazione penso sia abbastanza facile e immediato per chiunque. Ad esempio il tuo seminario sarà abbastanza particolare. Vabbè, sì, questa faremo una cosa con un gruppo di persone che sta lavorando in realtà quotidianamente, sta lavorando poi all'interno delle proprie vite, del proprio quotidiano, su questa idea del sapere, della conoscenza legata alle questioni fondamentalmente alimentari e in parte botaniche. Quindi cercheremo di fare una riflessione che parte, come dire, partendo da il fare il pane, che è appunto questa tradizione così semplice e anche purtroppo un po' persa nella nostra cultura, come una rilettura in chiave, diciamo, hardware e software di questa tradizione, può essere utile per riflettere un po' su alcune cose che hanno a che vedere appunto con dalla libertà dei saperi al manipolare le cose, al poi il difendere dei tipi di conoscenze che sono tradizionali e che quindi non possono finire nelle mani di privati o comunque di gente con degli interessi terzi. L'idea di fare questa cosa del pane è appunto quella di dire: cerchiamo di fare anche dei ganci di interesse che concretamente parlino di una realtà che non è informatica e non è computerizzata, perché chiaramente il più grande ostacolo è quello che da fuori l'apparenza che tu hai in quanto comunità dell'hack meeting è quella di essere un club di smanettoni, che in parte è vero, però ci sono delle persone all'interno di questo club che smanettano impastando della farina, e che è molto diverso che non appunto mescolare il codice e saper scrivere il programma di qualche tipo, insomma. Ma questo sicuramente ha dei livelli di interesse molto diversi. Senti, ma la comunità esiste da circa 10 anni, attraversata. La comunità, c'è da dire questa cosa, non, cioè la comunità, cioè, no, scusa, gli incontri in realtà esistono da 10 anni. Gli poi incontri sì, il primo è stato nel 1998 a Firenze, quindi questa è la 10ª edizione di questa iniziativa che viene chiamata in questo modo e che si manifesta in questo modo. Poi anche tutti, cioè se uno va poi a vedere quelle che sono state le come dire, i storici o comunque i perché in cui questa cosa è nata, allora dovrebbe andare a vedere nel 98 quali erano gli hack club, quali erano le relazioni tra i gruppi informatici, quali erano anche nel 1998 i discorsi che si facevano, se parliamo di sicurezza, privacy e diritti digitali, che insomma in questi 10 anni il panorama è cambiato e si è solo accresciuto per quanto riguarda i punti interrogativi. Quindi i motivi per cui è nata, cioè la necessità di aggregazione è una cosa che andrebbe, cioè che come dire, storicamente è possibile solo rivivere ogni volta che c'è la voglia di mettere di ritrovarsi, e quest'anno un po' perché sarà il 10º, un po' perché sarà che alla fine penso che un po' tutti ne abbiamo voglia, cioè, l'aspettativa e l'entusiasmo è veramente alto. Infatti io consiglio a tutti di farsi un giro, perché secondo me ci sarà, insomma, sarà molto divertente la situazione, ecco. Un altro dei motivi per cui in qualche modo si cerca di costruire dei contenuti che non siano solo legati al computer è far sì che l'affluenza a questo evento sia il più possibile generalista, nel senso, se vengono le persone della città noi siamo contenti, perché l'evento non è fatto per gli smanettoni tutti i giorni e non hanno bisogno di incontrarsi in un posto. La necessità di incontrarsi con il posto è il gettare un'ancora e creare dei collegamenti con delle persone che altrimenti probabilmente non si interfaccerebbero neanche con te, e quindi cerchiamo di catturare gente a impastare il pane per poi raccontargli e infarinargli tutte quante le questioni sui diritti digitali, che ovviamente ci interessano in maniera fondante. Senti, l'anno scorso è stata un'edizione un po' particolare, visto che si era deciso di chiudere, cioè di occupare un posto, liberare un posto per fare l'hack meeting a Parma. Come sei arrivati quest'anno invece alla decisione di farlo a Pisa, a parte magari la locazione geografica che poteva aiutare nella partecipazione, visto che insomma. Guarda, il modo in cui cioè di solito l'hack meeting si fa fisicamente là dove c'è una comunità locale interessata a accoglierlo, fondamentalmente, più che organizzarlo, perché poi l'organizzazione in realtà la si sta facendo tutta in lista, e poi ci sarà, cioè, c'è sicuramente qualcuno che nella settimana prima, nella fattispecie da oggi a venerdì, si sbatterà, e sono le persone del luogo e sono un po' di persone che scendono di solito prima, che comunque, cioè, ci sono persone che partecipano già dal lunedì e martedì, che vanno giù in luogo a iniziare a montare la space e così via, però il modo in cui viene scelta è un po' le disponibilità locali, là dove ci sono degli spazi. Il motivo per cui l'anno scorso ero un po', perché da una parte non c'era veramente un posto dove potersi trovare, e quindi un po' era venuta fuori la necessità, e poi è stato un dialogo, nel senso che noi avevamo la necessità di trovare uno spazio dove stare, c'era una realtà locale parmense che aveva aperto una serie di discorsi, e si è provato a fare un'azione di, diciamo, radicale, che fosse comune, quindi sfruttare un po' l'evento di questo hack meeting per lanciare sul territorio questo spazio qui, che poi tra l'altro ha avuto delle vicissitudini anche piuttosto sfortunate, quindi alla fine non è stato un lieto fine, non è stata un'esperienza che poi alla fine è continuata, però l'idea era un po' quella, era appunto costruire un qualcosa che avesse una dimensione che l'anno scorso è venuta, così, parlando con le persone che sono rese disponibili, si è arrivate alla possibilità di fare un'occupazione. Sanno, le persone che sono date disponibili fanno parte di un nodo locale che ha a disposizione uno spazio, e quindi andiamo in uno spazio sociale invece che costruirsene uno. Però, come dire, si tratta di accoglienza, e quindi si tratta di andare in posti che sono ben disposti a dialogare con te in qualche modo. Questo in realtà spiega perché noi stiamo in spazi liberati e non in spazi che appartengono a qualcuno, perché forse le persone che hanno delle proprietà private hanno meno voglia di ragionare con noi su alcune tematiche, perché nello spirito dell'auto-organizzazione la logistica è il primo degli obiettivi minimi da fare, quindi arrivare ad avere un posto che il lunedì è in un modo e il venerdì vederlo completamente trasformato con 400 computer connessi in rete è una bella esperienza organizzativa. Questo sicuramente. Senti, però forse questo a livello internazionale è un po' diverso da meeting di questo tipo, nel senso, forse l'hack meeting italiano è più legato a realtà appunto dell'auto-organizzazione, di attivisti che lo sono non solo digitalmente, diciamo, mentre invece ci sono altri incontri di questo tipo, non so, il Chaos Computer Club o gli altri meeting internazionali di hackers, tra virgolette, che hanno anche delle finalità forse leggermente diverse. Non so se ce ne state anche un po' di, diciamo così, di prese di posizione in questa direzione anche sì, l'anno scorso. C'è da dire, guarda, c'è stato il Transhack Meeting, questa versione internazionale, recentemente, prima dell'estate, siamo stati tutti quanti. È stata una discussione molto interessante esattamente su questo argomento, perché sicuramente la prospettiva italiana è una prospettiva che è caratterizzata dall'aspetto politico, e quindi dal fatto che l'hack meeting è una cosa radicale, è una cosa che, come dire, si propone fondamentalmente una critica a un conflitto e un discorso sulle libertà. che è, come dire, quello da cui partiamo, forse perché gli A-Club in origine erano legati agli spazi sociali o comunque avevano, c'era un discorso politico-territoriale italiano, cioè non so, non riesco a descrivere storicamente se ci sono stati dei motivi, presumo di sì, e sicuramente questa è una cosa che ci caratterizza da un punto di vista di, tra virgolette, identità nazionale, scusate il termine tremendo. Beh, rende orgogliosi in un certo senso comunque. Sì, è. E questa cosa è vera, nel senso che è vero che se si parla di meeting informatici o meeting di comunità informatiche o meeting di hacker, con tutte le virgolette del caso, si pensa a delle cose che spingono sul tecnicistico invece che spingere su, come dire, l'aspetto del diritto digitale o comunque dell'autoformazione, dell'autocostruzione di tutta quella sfera lì. E questo è un dibattito che viene fuori quando poi ti parli con quelli degli altri paesi e dici ok, allora noi cosa vogliamo fare insieme? Quindi bisogna sempre un po'... cioè è sempre molto meno sentita, e invece è una cosa che ci caratterizza alla fine, questo, come dire, questo, cioè è una cosa che si propone anche a tutti gli ACMITI. Ogni ACMITI c'è chi dice ah, ma cosa c'entrano le questioni politiche rispetto a quello che fate voi, e allora cerchi di articolare un discorso che, come dire, il materiale riciclato può essere chiaramente non in senso, cioè in sé, ma all'interno di un sistema in cui fai delle cose in un certo modo, è una rivendicazione, può essere uno strumento di conflitto, e a noi non ci piace smanettare perché, voglio dire, è più bello che andare a raccogliere farfalle, ci piace smanettare perché è la nostra arma con cui questa cosa del conflitto in qualche modo viene portata avanti. È chiaro che non è una cosa che puoi condividere al 100%, però sicuramente tra le prime intenzioni c'è quello di provare a dichiarare in maniera esplicita questa cosa. Il manifesto dell'ACMITING è esemplare, questa cosa la dice chiaramente: la manipolazione, la trasformazione, la critica e il non accettare in qualche modo, il non accontentarsi di quello che si ha, perché, come dire, i desideri valgono la pena di essere espressi fino in fondo e praticati. Questa è un po' la cosa che ci caratterizza. Secondo me è bello che ci caratterizzi, perché siamo sempre molto poetici nei contesti internazionali quando si parla di queste cose. A volte facciamo anche forse la figura degli ingenui, però è sicuramente cioè, un elemento forte caratterizzante, che secondo me è un elemento anche che poi ti lascia, quando torni a casa, la sensazione che non sei stato ad un gran convegno di tecnologia o comunque ad una situazione in cui i grandi guru della tecnologia ti hanno insegnato un sacco di cose, ma sei stato lì e hai potuto verificare una forma di partecipazione che sia la prima volta, che tu in realtà sia già un veterano, ti lascia sempre comunque un qualcosa che è diverso dal sapere legato ai contenuti e legato alla tecnica, ecco. Da sabato a domenica hackmeeting.org per avere da tutte le... Scusa, hai ragione. Da venerdì a domenica. Venerdì e sabato sono i due giorni, diciamo, di esatto, seminario, mentre la domenica è la giornata sì, di assemblea. Insomma, di l'assemblea. Esattamente. Si trova a Pisa, dietro la stazione, 5 minuti dalla stazione, in via Battisti 51, al centro sociale Rebeldia. Noi ti ringraziamo per grazie essere stata con noi. Vi aspettiamo alla meeting. Perfetto. Ciao, a presto. Ciao. In effetti sì, è da venerdì, abbiamo detto fino adesso, però è da venerdì a domenica l'hack meeting. Come fare il pane, come distribuire versioni di Linux personalizzate, ecco, sì, farei come... una panoramica rapida un po' dei seminari, poi naturalmente vi consigliamo di andare a vedere sul sito anche per sceglierli prima, insomma, per farvi un'idea prima di essere là, perché poi ci sono, diciamo, tre spazi in cui vengono organizzati seminari e molti sono in contemporanea, quindi molti sposteranno l'orario, perché sì, non esatto. C'è niente di fisso e determinato a priori, nel senso, io vedo un Linux base alle 11 di venerdì mattina che può tranquillamente finire nel venerdì pomeriggio, replicarsi da solo il sabato, perché è chiaro che sarà sicuramente anche uno dei seminari più classici segnaliamo magari quelli un po' particolari che, insomma, ci hanno colpito. Ricordiamo che appunto ci saranno quelli tipici Linux base, fondamenti di editing visuali, protezione della posta elettronica, insomma quelle cose che un po' facciamo anche al Circo Lab. Mentre le cose un po' più particolari possono essere, vabbè, abbiamo segnalato quello di Oted Hack the Bread. Come fare il pane. Ci sarà un seminario sulle licenze Creative Commons e creatività musicale, su come metterle in pratica, e un seminario di robotica umanoide con anche dei gadgettini. Questo sarà molto seguito probabilmente, perché è anche molto accattivante. Avremo anche un Hack the Bike, che non trovo adesso sul programma. Hack the Bike sarà durante la 2 giorni nello spazio aperto del Rebel Diad, che ha una ciclofficina. E ci sarà una discussione sulla GPL3, che è ancora in fase di gestazione. Ce n'è uno sul voice over IP, in cui vengono spiegati problemi di privacy e cose del genere per chi vuole telefonare via internet. Insomma, ci sono delle cose anche molto divulgative a livello base, mentre poi ci sono altri che sono decisamente, tipo questo IPSec Traffic Flow Confidentially, è uno di quei seminari che insomma. E ci sono anche seminari molto evocativi, come Hacker Conspiracy, ovvero pratiche hacker per il conflitto sostanzialmente e la loro storia. Ma anche la censura in Italia, chi, come e perché censura in Italia oggi. Metodi di compromissione dei sistemi anonimi. E Hacking the United Nation, che che c'era anche l'anno scorso, però quest'anno si è evoluto. L'anno scorso era il 3.0, quest'anno è Hacking the United Nation 4.0. Fatto veramente da un visionario. io l'ho partecipato a quello. Molto interessante. Io ho partecipato a quel seminario l'anno scorso a Parma, e devo dire che mi sono veramente divertito a guardare Hacking the United Nation, una spiegazione molto particolare. Come gli Stati Uniti cercano di tenere il controllo di internet. E Sì, con un titolo sicuramente carino, pomposo, ma con un sacco di fondamenti molto reali e anche insomma su cose che non si vedono sui giornali. Mi sembra di non vedere il seminario di programmazione per videogiochi da cellulare, perché questo l'anno scorso aveva riscosso un notevole successo. Perché l'anno scorso era stato fatto un gioco, ma c'è Isotopia, che invece il tentativo di sviluppo di una piattaforma per il gioco online che sia open source. Vabbè, ci sono veramente un sacco di hackmeeting.org dà l'elenco completo, e poi in realtà molti si aggiungeranno all'ultimo momento, altri verranno purtroppo magari cancellati, anche se di solito non capita, però insomma. E poi quest'anno c'è anche la novità dei mitici capannelli succanti, che viene istituzionalizzata, che sono vecchi un po', è quello che è l'hackmeeting, ovvero al di là dei seminari, insomma, l'ambiente è piuttosto informale. Si creano comunque appunto gruppi di discussione anche estemporanei, o diciamo ci si danno appuntamenti nazionali in cui appunto persone che si sentono generalmente via mailing list colgono l'occasione per discutere magari di alcuni progetti in corso in carne e ossa, diciamo, e quindi si creano questi capannelli succanti in punti non ben precisati al bar piuttosto che al tavolo della cucina, insomma. Io ti censuro, Alessandro, e mando lo spot dell'hackmeeting. Ecco, questo non è venuto tanto bene. Non importa. Anche se qualcuno si è incazzato in lì. Il 10° anniversario hackmeeting a Pisa, centro sociale Rebeldia, vicino alla stazione centrale, 28, 29, 30 settembre. Durante l'evento seminari e dibattiti aperti al pubblico e gratuiti. Parleremo di tecnica, ma anche di politica, diritti digitali, software libero, l'opposizione alla logica dei brevetti e del copyright tradizionale, la costruzione di server autogestiti, lo studio e la sperimentazione di fonti energetiche pulite, l'uso sociale delle tecnologie e l'incontro tra tecnologia e sessualità, i problemi legati al lavoro in campo informatico, la difesa della propria privacy, lo studio dei dispositivi di controllo e di sorveglianza, la resistenza alla censura. Appuntamento a Pisa, 28, 29 e 30 settembre, presso il centro sociale Rebeldia. Wow. Stavi dicendo wow, bello lo spot. Vabbè, comunque lo stiamo mandando parecchie volte in questi giorni, lo sentirete ancora nei prossimi 2 giorni. Direi che noi ci potremmo fermare anche qui. L'appuntamento con Cialtroni nello spazio non sappiamo se ci sarà, ma se ci sarà, sarà sempre a quest'ora, un qualche mercoledì di qualche mese, di qualche settimana. Non ne siamo ancora sicuri, ma promettiamo che ve lo faremo sapere presto. Di sicuro, se torneremo, torneremo con la stessa sigla. Allora, un saluto da Francesco, un saluto da Alessandro e da Marco. Termina qui la puntata speciale dedicata all'Hack Meeting. Se volete venire all'Hack Meeting, mandate una mail a cialtroni@circolab.net, che poi ci organizziamo. Altrimenti andateci da soli con lo spirito dell'autogestione. Tanto è vicinissimo alla stazione, sul sito trovate come arrivarci. A Pisa, da venerdì a domenica. Ciao! Si può anche pernottare a Pisa. Ah, è vero, ci siamo dimenticati di dirlo. Bisogna portare il sacco a pelo. Chi vuole usare un computer si porti il suo computer, chi vuole usare la rete si porti il cavo di rete, eccetera, eccetera, eccetera. Chi vuole scaricare qualcosa dagli altri computer si porti un disco fisso ciccione. Ma ciccione quanto? Tanto. Come Jack. A presto! Ciao.